Beh, Ocean molto Waves. Sì. Ocean Waves. È molto ambient. Molto paesaggio sonoro, ci no, piace, sì, ci piace. Infatti, secondo me puoi tenerlo altino. Tu che abbiamo, sei laggiù alla regia. Non abbiamo più paesaggi spaventosi. No, però abbiamo... Abbiamo... Abbiamo l'ospite. Abbiamo l'ospite. Abbiamo l'ospite. Arte contemporanea. Abbiamo arte Clicca contemporanea. Gigolate. Cioè, qua c'è un qua, gesticolare c'è un da questa parte del vetro. Stanno cercando. Eccolo. Arte contemporanea. Ecco. Oh. Volevamo ed eccoci questo, qua. Perché questa eccoci sera abbiamo niente po' di meno che Sergia Avveduti. Con anche l'applauso. Benvenuta a Cox Spaziale. Tu, benvenuta. Tu lo sapevi che questa Cox era Spaziale. Una trasmissione grazie poco seria. Grazie per avermi invitata. Prego. Era un ora. Era no, in effetti mancavi. Sto, mancavi potrei... solo. No, dovevo no, essere anche un'altra persona che forse c'è qualcuno no, che sono mancherà sono sempre, tanti. Ma... I prof dell'accademia che mancano. Ah sì? Eh sì. Ah beh, certo, se andiamo sì, vabbè, perché, se andiamo ah perché, no, perché c'è un programma. No, perché qualcuno ogni tanto dice "Ma quando è che mi inviti in radio?" e io naturalmente mi dimentico e mi scuso pubblicamente per non averti allora, ancora invitato in radio. Ci scusiamo con tu tutti i colleghi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Esatto. Ma prima o poi arriverà anche il vostro turno. E esatto. Poi come diceva quella poesia di Leopardi, garzoncello scherzoso, stagion liete con testa, ma la tua festa, canco tardi a venire non ti sia grave, era una cosa così. Oh, momento cultura. Hai capito? Ma magari come, non me la ricordo. Come drop questi non è proprio uguale. Secondo me ho sbagliato qualche... Te lo perdoniamo solo perché ti sei ricordata... No, perché il senso è noi ci fidiamo ciecamente. C'era la parafrasi a scuola. Esatto. È il compleanno di Federico Cortellazzo. Auguri. Auguri. Tanti auguri. No. Auguri Federico Cortellazzo. Vabbè, passiamo dunque a parlare di cose serie. Parliamo di cose serie. Sergia Veduti, fauna personale. Al Davia Bargellini. Ah. Allora adesso ci stava spiegando fuori onda, ma ce lo potrebbe spiegare anche in onda. E infatti. Perché proprio al Davia Bargellini? Tanto diciamo chi è Sergia Veduti, artista concettuale bolognese, concettuale va bene? Sì, un concettuale sì. Caldo. Che no. Esatto, è piuttosto riscaldato dalla storia e dall'antico, perché ad esempio... Un concettuale storico. Un concettuale storico, esatto, mi piace moltissimo attingere dall'iconografia del passato e pratico... con grande assiduità i musei per me sono fonte di ispirazione e stimolo per nuove narrazioni e lo faccio da diverso tempo dal 1999 quando iniziai spazio 1999 c'era spazio 1999 quando iniziai con Gino Giannuzzi a Neon e mi piace ricordarlo perché per me è stato un momento fondamentale. Che tempi. Da lì sono partiti tutta una serie di lavori, di riflessioni che ancora oggi io comunque porto avanti e il Davia Bargellini in qualche modo mi rispecchia perché è un museo delle meraviglie. È un museo di come perché ha un sottotitolo il museo Davia Bargellini, tipo museo civico industriale, esatto. Per cui ha nella sua collezione c'è cioè una collezione che riguarda una galleria pittorica ma ci sono anche degli oggetti, dei manufatti che raccontano proprio il quotidiano di una città, di un tempo e questo mi piace molto e lì ho trovato pane per i tuoi denti le putte di Santa Marta ovvero? Che sono che per me erano da valorizzare assolutamente. Possiamo spiegare al nostro ascoltatore unico che chi cosa sono le putte di Santa Marta? Sì. Le putte di Santa Marta nel sono 600 erano delle orfane che venivano come aiutate dai conservatori e in qualche modo si prendevano cura di loro, della loro formazione e cominciavano a insegnarle anche l'arte del ricamo. E cosa facevano? Riproducevano delle opere di dipinti antichi, tra cui anche i Carracci, e le rifacevano all'uncinetto, a ricamo su seta. Ma Bologna nel 600 era una città che aveva questa risorsa imprenditoriale molto forte ed era anche ricca proprio rispetto a questo materiale, no? E la produzione del filo di seta. E queste giovinette, proprio perché avevano queste mani piccole, riuscivano a rifacevano fare... molto più belli. I Carracci, ma fatti meglio, si può dire. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Tocca piano. Così, dai. Beh, direi che è una versione che incrocia quello che è l'artigianato artistico con la cultura più colta. E quel museo è un po' una mescolanza di queste due cose, artigianato artistico di alto livello, di eccellenza, perché ci sono, per esempio, ci sono tutti degli apparati come le chiavi, oppure dei cancelli in ferro battuto, c'è un teatrino, una carrozza senza mozzarella, una carrozza del Settecento, molto effetto scenografico. Cioè, lo spazio è molto bello, c'è un sacco di roba bellissima, ma inserire delle opere non deve essere una passeggiata. No, ma perché farlo quando già c'è tutta questa ricchezza? Quindi tu come hai fatto? Hai preso le opere e le hai... cioè hai riallestito la collezione? No, hai portato anche delle cose tue. Certo, io ho cercato di mettermi in dialogo con alcune presenze che mi risuonavano. E per esempio ho scoperto che un dipinto... andava in prestito e quindi si assentava dalla collezione del museo. Ma si creava un vuoto. Si creava un'assenza, un vuoto. Allora io ho cercato di far parlare questo vuoto e mi sono fatta dare la fotografia di questo dipinto e ho costruito una nuova immagine, una nuova narrazione di quest'opera. Mi riferisco a Prospero Fontana, che in questo momento è esposto in prestito alla mostra di Bartolomeo Cesi, che è al Museo Civico Medievale. Quindi più che mettere questo banale riproduzione, molte volte anche di scarsa qualità, sì, una copia fotostatica, mi sono detta, faccio io un'opera nuova, una mia versione di Prospero Fontana, dove quella narrazione biblica, l'orazione dell'orto, ha un nuovo sapore. Cerco di farlo entrare nel presente. E che sapore avrà questa orazione dell'orto? Non lo so. Lo scopriremo se andiamo mercoledì. Puntarelle. Bisogna scoprirlo andando a vedere la mostra di Sergio Aveduti, che inaugurerà mercoledì 14 a cura di Elena Forin alle ore 17. Vabbè, Ombra custode. È un bellissimo titolo, sì, molto bello, suggestivo, incuriosisce, perché c'è quest'idea di duplice di cura, cioè come il museo conserva i capolavori del passato, i manufatti del passato, in quel palazzo, che è anche stata sede dell'Opera Pia, dei giovani hanno avuto una cura. Le pute di Santa Marta, come raccontavo prima, erano accudite all'interno dei conservatori, sono esposte, fanno parte della collezione del museo. E queste cose, secondo me, risuonavano insieme, cioè la cura delle opere insieme alla cura delle persone. Quindi le giovinette hanno avuto la possibilità di emanciparsi, perché attraverso questi manufatti, che erano molto ricercati e ben pagati, loro potevano avere una dote per poter costruire una famiglia e per non necessariamente fare la vita, magari ecclesiastica molto più ritirata, ecco, potevano avere una vita molto più sociale, ecco, perché già durante la formazione non avevano contatti con l'esterno, quindi c'era una formazione che le proteggeva dall'esterno, perché nel 600 il mondo esterno era fatto di pericoli per una giovinetta, cioè poteva anche nel 2026 è molto pericoloso, anche per se alzi un po' troppo la voce ti sparano in faccia, esatto, soprattutto voi donne. Esattamente, proprio ne parlavamo prima. Quindi sì, diciamo che i pericoli, per cui tu hai fatto una crasi tra l'angelo custode e il governo ombra e hai messo insieme perché comunque i conservatori si prendevano cura di queste giovinette in maniera discreta, non era una cosa ostentata, e comunque loro restituivano questa protezione, questa cura attraverso questi manufatti preziosissimi, e io quando li ho incontrati ho pensato che dovevo valorizzare il lavoro di queste ragazze, perché era una forma di welfare in grande anticipo, anche se fatto attraverso un ente religioso, però altra cosa è il welfare che si sta perdendo di questi tempi. Noi abbiamo questo sguardo rivolto al passato perché il presente lascia un po' a desiderare ultimamente. Welfare contemporaneo. Ci stava bene, ci stava bene un pezzo magari. Magari l'ideale di qua e critica di là. Ma Marco Roma non ci vuole più bene. No. Ma come non ci Non ci vuole pensa più dal bene? 25 dicembre. Marco Roma ci preoccupiamo anche. No, ma gli ho scritto prima. Gli ha risposto, sta bene? Non lo so. Poi glielo chiedo. Marco, come stai? Vogliamo sapere. Dacci un canto. Anche un po' in pensiero. Noi ti mandiamo questo canto. Forse. Sì, è già partito, lo vedo. Someone to rely on. So tell me where. come stanno i vostri muri dopo? Io mi sono un attimo distratta. Stavo chattando con un altro gruppo. Stavo chattando. Cosa fai? Mi faccio gli affaracci miei. Stava chattando col gruppo speleologi fiorentini. Ma sì, però casomai puoi... gruppo speleologico bolognese. No, fiorentini ci ascoltano anche loro, ci sono anche loro. Ho fatto anche parte io. Hai fatto parte? Ah beh, certo. No, lo sapevo. Ah, per quello che facevo. Sei coraggiosa, Chiara. Io sono infilata in grotte, in Bertucci, in non vogliamo sapere. Noi scendiamo in dettagli scabrosi. Esatto. Chi è che mi telefona, Dio buono? Allora, questo sottofondo è un attimino invadente. Ma è fatta apposta, perché tu fai posto per nascondere cadaveri, sai. Esatto, certo. No, ma è tanto tempo che non pratico più la speleologia. Hai visto il film Il Buco? Sì. Sai che no? Credo di no. Assolutamente. L'ho visto? No. Francesco, se l'ha visto, proprio recentissimo, però sì, relativamente recente. Benissimo. È uno dei registi dopo Yuri Ankarani, secondo me. Ma è un film vero o è un film d'artista? No, è un film. Cioè, non voglio dire che Yuri Ankarani non faccia dei film. Non faccia film veri. Non volevo dire questo esattamente. Sì. Però, insomma, si nota, almeno quello che ho visto io, si nota un'impostazione. Però è bella questa linea di confine così... Tra arte e cinema. Sì, io trovo che sia molto stimolante. Per capire. Cioè, rompere questi confini, questi paletti. Tanto, voglio dire... Il mainstream hollywoodiano sappiamo che ha delle narrazioni che sono anche abbastanza appunto mainstream e convenzionali, sì. E questi registi invece sono proprio lì sul bordo e sono audaci, perché comunque è una bella responsabilità, hai la responsabilità di una troupe, hai la responsabilità di mille cose, io li ammiro tantissimo. Ah certo, e lui è stato giù proprio... Ma questo lui di lui cui regista, parli... Il regista ha fatto proprio esperienza diretta, è speleologo. Ci hai detto come si chiama? Fra Martino. Ah, ok. Però ce l'hai detto adesso, non ce l'avevi prima. L'avevo detto anche prima, ma lo ripeto. Vabbè, tanto è tutto problemi. Registrato. Abbiamo un saluto. Abbiamo un sento della biff. A volte io penso di dire delle cose che ho in testa. Magari mi era sfuggito. Chi ci saluta? Lui si è inserito all'interno, cioè è un video girato dentro. Ha fatto proprio un film. Questo è proprio un film. Benissimo. Del 2021. L'ho paragonato a Yuri Ankarani. Ma si trova... Yuri Ankarani fa l'altro. Direi di sì. Ti ha scritto. Apparirà ad Alchemilla in Marziali. Com'è che si chiama? Incontri Marziali. Wow. Della Santissima. Non lo sapevo. Quando? Sì. Se non vado errato, il 6 febbraio, domenica. È il giorno prima del mio compleanno. Ah, adesso quando è che fai gli anni? Ci saluta. Il 7 febbraio. La nonna Acquario. Anche bianca, sì. Anch'io sono Acquario. Anche l'anno scorso era la notte bianca. Il mio compleanno è niente. Il mio evento. Perché in realtà dovresti fare una festa aperta a tutti, Chiara. Sì, proprio. Ma la fa la notte bianca? Assolutamente. Esatto. Sei brava a fare la notte bianca. Come fai a fare la notte? Ci saluta Letizia di Fuori Sedia. Ciao Letizia. A proposito di Letizia di Fuori Sedia, annuncio importantissimo. Io credo di aver incrociato stamattina su via Boldrini in bicicletta Valeria di Fuori Sedia. L'ho riconosciuta tardi e poi ho notato che non aveva il cappello e mi sono domandata, me lo domando tuttora: Valeria, ma come fai con questo gelo? Ma si fa. Io vado senza i guanti. No. Follia. Temerario. Com'è possibile questa cosa? Siete bioniche? No. Cioè io ero lì con questo cappello che vedrete domani nella foto o stasera sui social e con dei guantoni tipo box. Sì, ma nel frattempo Pasquini è passato, ha alzato volumi. Succede nelle migliori radio. Ha approfittato del fatto che stesse parlando di teste scoperte. Mentre non mi guardavate, io ho alzato il volume. T'ho visto. Bene, noi abbiamo pochi minuti. Abbiamo due minuti. No, infatti. Non apriamo un altro argomento. Apriamo, o lo apriamo? Apriamo un altro argomento. Lo apriamo e lo chiudiamo poi dopo la pubblicità. Fai come sai fare tu di solito. Vabbè, facciamo così. Diciamo anche questa cosa en passant, che comunque Sergio Veduti è anche una docente dell'Accademia. Ah, ok. Giusto? Responsabile di Belle Arti Bologna. Responsabile degli stage. Responsabile degli stage. Irresponsabile degli stage. Però non so se lei voleva parlare di queste cose. Ma non ha importanza perché qua non è democratica la cosa. Adesso invece Sergio ci dirà il nome della materia che insegna, perché hai una materia con un nome particolare, giusto? Io insegno. Ho tre insegnamenti in realtà. Allora, vediamo come tu diceli tutti. Quale ha colpito il tuo inconscio nel profondo. Adesso diceli, poi dopo facciamo. Ad esempio, tecniche e tecnologie delle arti visive? No, questa che non ha... è questo okay. che ha colpito il mio inconscio. No, non mi ha colpito il tuo inconscio. Fenomenologia del corpo? Potrebbe già essere già un po' più... potrebbe essere... Esatto. È l'ultima colpo di organico, potrebbe essere già... Vediamo il terzo. Fenomenologia del corpo. Ah, ok. Senti anche come suona. Pensavo... No, suona bene. Perché se lo dico lentamente già ha, come dire, un impatto più efficace. Ma chi lo faceva prima di te? No, è nata con lei, fenomenologia del corpo. Non propriamente, però non... La terza materia è molto facile. No, ce lo dici dopo la pubblicità. Ecco. Teaser. Ciao, Cliffhanger. Spaziale. Corso addirittura due fenomenologie. Ci sono due fenomenologie, cioè fenomenologia 1 e fenomenologia 2, o sono due fenomenologie? No, vabbè, succede che su uno stesso insegnamento ci siano più docenti che lo insegnano. Ma e quindi scusa, fenomenologia Merleau-Ponty ha come se non ci fosse un domani, così. Sì, esattamente. Cioè, chi ha il dispositivo vicino? Non lo so, adesso io lo metto. Ma insomma, qual è la terza materia? Niente, la terza materia era un po' più deludente, devo ammetterlo. Era quel. No. Disegno per la scultura. Disegno per la scultura. Cioè, che poi è bellissima che come può materia essere, da insegnare, però. Sì. Ci stava bene. Ma disegno per la scultura è bellissimo. No, infatti. Cosa insegni a disegno per la scultura? Allora, il tutto tondo. Beh, intanto parto da un'opera di Fabbro che secondo me ha tradotto il disegno attraverso una forma plastica. Non so se ve lo ricordate, questo cilindro scavato con un disegno di Michelangelo che raccoglie la polvere di gesso che è adagiata su un lato dell'installazione. Per cui, facendo ruotare il cilindro, è una forma... Qua i due co-conduttori stanno veramente... Cioè, nulla con la coda tra le gambe. Esatto, proprio. Si vanno a seppellire sotto Si chiama Sisifo, è il mito di Sisifo. Sì. Ah, sì. Adesso lo andiamo a vedere, infatti. Lo cerchiamo. Sembra fantastico. E l'aveva presentato anche per il centenario di Michelangelo e quello secondo me è un'opera sul disegno, oppure Rebecca Horn, no? Sì. Ad esempio. Già ci orientiamo meglio. Quindi poi sicuramente ci possono essere dei disegni che sono propedeutici una scultura. Luciano Fabbro. Non la conoscevo. No, sono ancora indietro. Soprattutto non vedo. Non vedi Michelangelo? Molto bianco. Michelangelo dov'è? È appena percepibile il disegno perché si crea uno spessore polveroso sopra la superficie della polvere di marmo che lascia. Sì, lo vedi? Guarda, sì. Bello. Quindi è tra materialità e immaterialità. Per molto bello. Credo che sia una buona... È una forma anche di... vicino all'incisione, infatti, se ci pensi, sì, no? Sì. Una quasi non una... in piano, ma un'incisione su cilindro che viene... Quindi implica anche una certa difficoltà, no? Rispetto... Evoca un po', adesso per coinvolgere il nostro co-conduttore che di questo ha pratica, un po' un rullo compressore stradale, però fatto in marmo e con il gesso, invece che... d'acciaio o di quello che sarà con... Con bello, è quasi una è un'idea di fare dei disegni speciale. Senza necessariamente usare delle matite, ma usando dei materiali, usando dei, dei si dice lavoro processuale, proprio perché ha varie fasi di sviluppo, ecco. Bello, vabbè, bene, quindi disegno per la scultura. Invece fenomenologia del corpo, cosa succede? Fenomenologia del corpo, si io sta tutti nudi intanto. Ecco. Vabbè, questo non è la base, questo anche d'inverno. C'è una lunga tradizione nelle accademie. Infatti. Adesso stanno cercando di smantellare i modelli viventi, che è un po' un peccato perché infatti. Viene poi meno appunto questa questione del nudo, che era un grande appeal di pubblico, secondo me. È vero. Tanti è vero. Si iscrivono. Dovremmo ricominciare a stare bisognerebbe, tutti nudi sì, perché noi adesso che poi abbiamo questi problemi, per cui la comunque lei stava per autofinanziare, speriamo non c'entri con la speleologia. Questa parete. No, ma io sono d'accordo per mantenere i modelli viventi. Io sono d'accordo con te, anche perché alcuni di loro hanno una certa versatilità, sì. Cioè, quindi non è detto che ci sia... Dipende come lo utilizzi. Dipende come lo utilizzi, sono d'accordo. Io attualmente, quando facciamo delle esercitazioni con i ragazzi, tendo a usare ovviamente i loro corpi, perché poi, cioè, come insegna Bruce Nauman, il tuo corpo ha una percezione dello spazio, quindi tu ti relazioni con uno spazio e con altri corpi. E poi c'è tutta la teoria della prossemica, per cui insomma è piuttosto affascinante e sono esercizi che giustamente i ragazzi possono fare senza bisogno di avere necessariamente un modello. Sì, risparmiamo risorse, no? in questo modo. E poi le performance, che è un linguaggio molto praticato in questi ultimi anni, io cerco di mettere in relazione anche con degli oggetti, con delle sculture che possono essere attivate, per cui la scultura non sta semplicemente appoggiata a terra o su un piedistallo, ma può essere indossata, come Franz Best insegnava negli anni 70, no? Che invitava il pubblico a relazionarsi con queste sculture e a quasi indossarle, proprio mettersi in relazione. Il nostro ospite è un po' troppo colto, stavo notando che sì, ormai no, non volevo fare una lezione, ma siete state voi a... No, vabbè, ce la siamo tirata addosso. Esatto, ce la siamo cercata. Ha iniziato a parlare di accademia e ovviamente la professoressa si... Io direi che meglio, possiamo toglierci dall'impaccio l'angolo della menzione. Facciamo così, così poi siamo liberi. Però è interessante comunque. No, interessante. Molto interessante. Magari qualche ascoltatore. L'angolo della menzione. Magari si iscrive all'Accademia anche. Chi comincia? Okay, io no, perché ho perso in tutto questo. Mercoledì, ho perso il foglio. 14 alle 17, l'abbiamo detto, ma lo ribadiamo con tanta convinzione, nell'ambito di Art City Bologna 2026, Sergia Veduti, Ombra Custode, inaugurazione della mostra promossa dai Musei Civici d'Arte Antica in collaborazione con AF Gallery a cura di Elena Furin. Le opere esposte, molte delle quali inedite, includono sculture, installazioni, stampe digitali fotografiche e su seta. Attraverso di esse l'artista mette in connessione l'attività di tutela e conservazione svolta dal museo e la funzione sociale di protezione ed educazione assolta dalle opere pie e dai conservatori per fanciulle, istituiti a Bologna tra XV1, questo vado il XVI-XVII secolo, ti dovevo prendere un po' di tempo, a favore di giovani donne accomunate da fragilità e precarie condizioni economiche. Un'attività svolta in maniera attiva e positiva, ma anche con sobrietà e discrezione, quasi nell'ombra, come suggerisce il titolo della mostra. Tutto questo al Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria da Via Bargellini in Strada Maggiore 44 a Bologna. Adesso c'è una menzione difficilissima. A Bologna, giovedì, non ho capito perché dobbiamo specificare, giovedì 15 gennaio 2026. Perché poi c'è a Milano. Appunto, infatti, perché sono collegati questi due eventi o sono due eventi diversi? Sono due eventi diversi. Allora, cazzo vuoi, le faccio io le menzioni. Il primo Bologna è sottinteso, solo dopo che è a Milano, perché a Bologna sono tutti... Vabbè, comunque, basta con la polemica. Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti presenta il primo appuntamento con i dialoghi culturali a Palazzo d'Accursio. Nell'ambito della mostra Pietro Pietra 1885-1956, La forza del segno. L'evento ad ingresso gratuito è ospitato nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio e vedrà gli interventi di Gian Arturo Borsari, presidente dell'Associazione Bologna per le Arti, e Daria Ortolani, curatrice della mostra. Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6, Bologna. E invece appunto andiamo a Milano, perché come tu ben sai Radio Città Fujiko adesso è ascoltabile in DAB a Milano, e cioè non a Milano, in tutta Lombardia. La Lombardia, in tutta la Toscana. Non c'è più lo stacchetto fuori porta. Non c'è più lo stacchetto fuori porta perché siamo fuori porta. Giovedì 15 gennaio invece a Milano dalle 17 alle 20:30 From A to X, Too Much Love, una mostra di Sofia Tobisova e Adam Witt. La mostra si sviluppa come un'indagine congiunta sul movimento, l'instabilità e l'identità come condizione in continuo cambiamento, affrontando le contraddizioni insite nella ricerca contemporanea di significato e appartenenza a un luogo, a una pratica o a un'altra persona. Gli artisti, entrambi di Praga, sono una pittrice e un artista multidisciplinare. Tutto questo a una galleria, che è una galleria di Piacenza, che però ha anche una sede a Milano. In ed via... è sempre una. È sempre una, malgrado siano due. In via Lazzaro Palazzi, numero 3, a Milano. Vado io? Vai. Sì. Venerdì 16, dalle 18 alle 20 e torniamo a Bologna. In occasione di Arte Fiera Art City 2026, a Casa Morandi inaugura Concetto Pozzati, da e per Morandi, a cura di Maura Pozzati. Il percorso espositivo inizia con il dipinto da e per Giorgio Morandi, realizzato nel 1964, che coincide con l'anno della scomparsa dell'artista bolognese e con la partecipazione di Pozzati alla Biennale di Venezia e a Documenta di Cassel. Il quadro segna il passaggio dall'informale organico a una pittura più oggettuale, con gli oggetti definiti in modo potente sulla tela e la composizione divisa in due parti, secondo un'idea di matrice pubblicitaria particolarmente cara all'artista. Tutto questo a Casa Morandi, museo in via Fondazza 36 a Bologna. Avevo invitato anche Maura Pozzati stasera, soltanto che sta allestendo Casa Morandi in questo momento. C'ha delle cose serie da fare, di differenza, no? Ma la salutiamo. Tutto il pomeriggio lei ce l'ha fatta lo stesso, quindi... E quindi... Depennata. No, depennata no, però... Forse riusciamo ad averla al 29, così ci racconta com'è andata. Va bene, intanto venerdì 16 gennaio alle ore 18:30 ad adiacenze Bologna e Venezia si incontrano in una lettura in cui la poesia è materiale di comunicazione incandescente. Sofia Fiorini, Rebecca Garbin, Nicole Principi, Marina Dora Martino, Francesca Basso e Margherita Barbato Mascaro, o Mascaro, non saprei, intrecciano i loro lavori in un botta e risposta poetico che altera l'andamento del reading frontale. Sei poete si incontrano dove il sole ferita rimargina, intersecate per una sera, cambiano forma, nel dialogo le poesie risignificano, sono inquiete. Ad adiacenza in vicolo Santo Spirito 1/B a Bologna. Spirito Santo. Fa lo stesso. Sempre santo è. Santo Spirito. Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17:30, sempre nell'ambito di Art City Bologna 2026, Alessandro Moreschini con L'ornamento non è più un delitto, a cura di Raffaele Quattrone, in collaborazione con A-Web e Pasot. L'ornamento non è più un delitto, con questa affermazione pronunciata da Renato Barilli in un testo del 2020 dedicato a Lilli van der Stocker e ad Alessandro Moreschini, si apre il percorso della nuova mostra dell'artista al Museo Civico Medievale di Bologna. Una frase che da dichiarazione critica diventa oggi titolo e chiave di lettura di un progetto espositivo che rilegge la tradizione decorativa come gesto etico, come pratica di cura e di attenzione verso il mondo. Tutto questo al Museo Civico Medievale in via Manzoni 4 a Bologna. No, mi chiedevo se Raffaele Quattrone dovesse decidere di fare una mostra alla Uno Gallery a Milano. Ok. Tanto cioè, è finita la mostra. È una questione numerica. Rimaniamo a Bologna. Siamo a 17. Scusate, no, devo aprire una parentesi perché la pronuncia corretta è 4-1. Ok, alle ore 18 lo studio Cenacchi presenta la mostra Francesco, contenitore di pittura, a cura di Gabriele Salvaterra. A partire dalla documentazione dell'attività svolta tra il 2014 e il 2019 dallo spazio espositivo Francesco Siracusa ad Agrigento, quasi 30 artisti con apporti liberi mostrano i percorsi molteplici del medium tra figurazione, astrazione, segno, costruzione, tecnologia, scultura e dematerializzazione. Gli artisti sono Andrea Stolfi, Giovanni Bianco, Giuseppe Bombacci. Blanco. L'unico che conosco, ti correggo. Scusaci, Giovanni. No, Giovanni Blanco, Giuseppe Bombacci, anzi, scusami. Roberta Cavallari, Pierluca Cetera, Barbara De Vivi, Lorenzo Di Lucido, Simone Geraci, Domenico Grenci. No, conosco anche lui. Elisa Grezzani. Io però ne conosci anche la Roberta Cavallari in realtà. Federico Lanaro, Andrea Mangione, Paolo Migliazza, Igor Molin, Luca Moscariello, Michele Parisi. Michele Parisi è stato un mio compagno di accademia. Giorgio Pignotti, Ettore Pinelli, Manuel Portioli, Francesco. Cielo o non cielo? Francesco Rinzivillo, ne ho ancora un po'. Alessandro Saturno. Qui sta partendo una beef tra. Thomas Scalco, Luca Sclafani, Federico Severino, Tina Sgro, Nicolas Stedman, Valerio Valino, Giovanni Viola. Tutto questo allo studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna. Come sempre noi ci teniamo a rendere l'esperienza delle menzioni il vostro momento peggiore del lunedì sera. Esatto, questa è, è la nostra mission. Ma fatto adesso sta che comunque sono finite e dunque possiamo continuare a parlare della mostra di Sergia. Questo lo facciamo fra un attimo, io voglio sapere, ma adesso che ci estendiamo a tutto il territorio mondiale, dobbiamo menzionare tutto. No, dobbiamo fare una trasmissione di 2 ore e 25. Perché, secondo me non vi ascoltate. No, quello che in realtà oggi stavo per fare era una selezione delle menzioni e poi indicare che su coxospaziale.blogspot.com ci sarebbe stata la lista completa di tutto quello che succede in Italia. In Italia e nel mondo. Addirittura. No, semplicemente in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Tre regioni che raggiungiamo. Se non fosse che le menzioni che avevo erano queste, per cui ho detto a questo punto. Ma le troverete comunque nel blog. No, io sono favorevole a fare l'elenco. No, l'elenco completo. Completo. Sì, assolutamente. Ok, va bene. Va bene, ma torniamo alle 4 di pomeriggio. Torniamo alla mostra di Sergia Veduti. Che è meglio. Anche perché quando parla lei è tutto molto più interessante. È tutto più interessante, esatto. Sì, ma se parli tu, non parla lei. No, adesso faccio la domanda. Io solo devo fare lei la è educata e non mi parla sopra. Perché invece. E invece io lo faccio. Sì, anche io però mi vendico. Vai di domandina. Va bene, la domandina. Allora, no, perché ricordo Aldavia Bargellini. Non ricordo tutte le numerose mostre che il Davia Bergellini ha ospitato, sì, tutte molto interessanti, però pensando un po' agli artisti contemporanei mi ricordo un artista che lì era molto ben contestualizzato secondo me, quindi sicuramente tanto quanto te, era Andrea Salvatori, sì, per esempio. L'ho vista quella mostra. L'hai vista, sì, quella, sì, mostra? Assolutamente. E allora sull'onda di questa libera associazione di idee volevo chiederti quali sono i tuoi riferimenti artistici sia nel passato che nel contemporaneo, cioè non solo artisti passati che uno, Fabro ce l'hai già detto, ma anche Paolini, più di Fabro per quanto mi riguarda. Paolini credo di essere in debito con in qualche, idealmente in debito, però per certi aspetti anche Rienti, perché io sono stata molto legata, come lui, alla carta e alle potenzialità di questo materiale. Poi la carta si è trasformata in un materiale più prezioso e quando io, come dire, rielaboro l'antico, molte volte faccio delle stampe su delle stampe fotografiche, ma anche delle stampe su seta. In questo caso al Davia Bargellini ci sono dei lavori che sono in connessione anche con, proprio per materialità, con i manufatti appunto delle Putte di Santa Marta, ma in altri casi gioco molto anche con l'iconografia. Per esempio, c'è un'opera di Donato Creti, Il giocatore di dadi, e io ho collocato due sculture che si chiamano Polpe Nocciolo, dove ci sono dei dadi che mi stimolarono anni fa, e gli originali sono al Museo Civico Medievale, quindi siamo sempre nel contesto bolognese, e io li ricordavo con una certa forma. Quando li sono andati a rivedere a distanza di tempo, mi ero sbagliata, sono tondi, no. La mia memoria aveva già applicato delle modifiche magari li hanno sostituiti nel era la mia memoria che aveva lavorato cambiando la forma di questi dadi esagonali. Già un dado esagonale, cioè il punto di partenza era già meraviglioso, un dado esagonale in osso, per cui aveva tutti questi lati sfaccettati. La mia memoria aveva rastremato le estremità e quindi aveva già lavorato per me in maniera inconscia. Quando io ho preso coscienza di questo lavoro, molte volte noi facciamo delle associazioni mnemoniche commettendo degli errori, e questi errori possono essere in alcuni casi fortunati, non sempre, proficui. Esatto. E da lì l'idea di fare dei dadi ingigantiti rispetto ai formati di partenza in ceramica, però ho eliminato il punteggio, l'ho riassunto in un unico intarsio ligneo, quindi la ceramica a contatto anche con un materiale in legno che io già ho utilizzato in passato quando facevo i meccanismi di orologi antichi sovradimensionati. Quelli sono bellissimi, ma chi te li realizzava? Li facevi È il segreto dell'artista. Si può anche non dire, ma spiegare un attimo così in generale. Che in realtà era un restauratore di canne d'organo. Però non c'è più. Tra l'altro, le canne d'organo sono anche in legno, non sono solamente in queste leghe metalliche, sono anche in legno. E lui era molto bravo anche appunto a utilizzare questo materiale, però poi ha lasciato l'attività e adesso io sono un po' orfana di avere un supporto tecnico manuale. Gabriele è bravissimo a usare il legno, infatti sto guardando le opere. Veramente? Sì, no, beh, nel senso, un po' l'ho fatto qualche laboratorio, è bello. Davvero? Parliamone. Perché non è facilissimo, una difficoltà che si incontra a volte, non so se l'avete incontrata anche voi, è che quando tu vai da un artigiano che magari lavora come un falegname su cose grandi, magari gli armadi, le cucine, no? Ma è tutto ortogonale, non hanno le forme organiche curviline. Non c'è la forma curvilinea, e poi anche la cosa, magari il pezzo unico, la piccola tiratura, la vedono come una cosa, vabbè, ma questo non è, cioè, non lo considero un lavoro, cioè fanno fatica a entrare nell'ottica che anche quello, a volte io mi sono trovata a dire, ma non è che dobbiamo fare un prezzo a materiale per questa cosa, cioè per dire, perché qui non è che ci guadagno molto, no? E allora non te lo faccio neanche. Ma perché di base non ti vogliono dire che la tua idea gli fa cagare. Quello, sì. È con questo. Siamo già alla fine della puntata. Incredibilmente siamo la cosa strana, Sergio, che tu non ci sei mai stata della radio, è che quando subito. Vieni in radio un quarto d'ora dura, cioè in un'ora dura un quarto d'ora. Alla fine non è stato così spaventoso. D'altra parte io dovevo rompere questo tabù, stasera l'ho fatto. Te la sei cavata egregiamente. Sì, perché stavamo entrando in un argomento interessantissimo, ancora più di quelli precedenti. Prima che si alzi il livello di radio abbassiamolo. Noi intanto vi ringraziamo. Salutiamo. Io ringrazio voi per avermi invitata, mi sono molto divertita. Grazie. Ringraziamo la nostra ospite. Mercoledì al Davia Bargellini dalle 5 alle dalle 17 alle 19. State attenti perché se arrivate alle 19 esatto. meno 2 non vi fanno neanche entrare. No, mi sembra più che giusto. Però poi la mostra rimarrà aperta fino ai primi di marzo. Quindi c'è tutto il tempo andarla a vedere. Molto bene, perché fra l'altro è uno dei pochi musei gratuiti che ci sono a Bologna. Sì. Insomma, è una delle quindi, cose belle. Andate. Quindi approfittiamone. Assolutamente. Per dirvi, domani io faccio l'allestimento, ma alle 10 apre al pubblico, ecco. Per cui io... Devi andarci dalle 6 del mattino. No, sono d'accordo che continuerò anche se ci sono i visitatori, perché... Che è poi una delle cose belle di andare in un museo a caso e trovare qualcuno che sta allestendo. Che sta allestendo una bellissima mostra. Che in questi giorni può succedere. In questi giorni può succedere. Questo era Coxo Spaziale, io ero Lisa Mignemi. Io ero Cinzia Corda. Io ero Chiara Pergola. E chi è rimasto? Pasquini. Pasquini. Che eri tu. Che ero io. Come io ero. Salutiamoci con le parole del nostro direttore, come al solito. Con questo basso livello di radiofonia, Gabriele, ascoltiamo la sigla. Vado dallo psicologo.